24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. In Veneto, Luca Zaia vince a mani basse, nonostante l'addio di Flavio Tosi, quasi irrilevante. Alessandra Moretti con lei, il centrosinistra fa uno dei peggiori risultati di sempre. Da qualsiasi punto di vista lo si voglia guardare, la Lega Nord questo appuntamento elettorale l'ha vinto. Con in testa il nostro comandante, sì, seguiremo lungo il suo cammino. Un risultato così, proprio non se l'aspettavano. E se aggiunge che soltanto un paio di mesi fa la Lega veniva data per morente, l'esito di oggi è straordinario. Insomma, la questione settentrionale non è affatto risolta, anche per il PD renziano. Per Salvini non ci sono dubbi, l'unico vero programma alternativo a Matteo Renzi lo fornisce la Lega. Si accende il cielo e non se ne parla più. Allora, presidente Zaia, lei era già il governatore preferito in Italia, oggi è il governatore del Veneto, il governatore più votato. La sua lista, buongiorno, la sua lista è di gran lunga più forte di quella della Lega. Insomma, in Veneto vince la Lega, ma stravince Zaia. Contento? No, ma direi che vince un uomo della Lega che è Zaia, visto considerato che la Lega ha fatto il sacrificio poi di accettare anche una lista civica. Senta, ma cosa vuol dire che la sua lista ha preso più voti di quella del partito? Beh, le dirò che non significa nulla, visto e considerato che molti leghisti, e poi per continuità, per il fatto del nome, magari possono avere, avranno sicuramente votato la lista civica, la mia lista, però altrettanto vero che era fondamentale averla, visto e considerato che parte di elettorato anche di sinistra mi ha votato. Senta, ma si può dire che in Veneto Zaia batte Salvini? No, decisamente no, siamo un unicum, siamo un tutt'uno, l'abbiamo dimostrato. Senta, moltissimi però in Veneto, l'ho letto sui giornali di commenti di questi due giorni, hanno detto ho votato Zaia, non la Lega, perché Salvini non c'è tanto simpatico. È vero che in Veneto non è tanto simpatico? Ma questo a me non risulta. L'avrà letto anche lei? Ma sì, poi c'è sempre la ricerca di trovare l'antagonista. Certo. La verità è che come figure politiche, l'amministratore politico ci completiamo. La dimostrazione è che questo cocktail poi ha dato il risultato che abbiamo straordinario, avuto. Certo. Un Veneto su due ci ha votato. Certo. Senta, ma la Lega però, in vero, per metterla su un altro piano, è diversa da quella lombarda? No, la Lega Veneta ha una diversità rispetto a quella lombarda, è più identitaria. Qui da noi 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto, questo è il punto di partenza, quindi il profilo identitario c'è ed è evidente, ma lo sanno anche i lombardi. Ma anche l'origine, diciamo, se si può dire, più democristiana. Ma no, il bacino sì, era quello, però altrettanto vero che chi le sta parlando non ha mai votato altri partiti se non la Lega Veneta, visto con certo perché che è giovane. Per perché è giovane. Beh, quando c'era Tangentopoli, c'era la fine della Prima Repubblica, ero all'università, quindi appunto. I primi voti erano già leghisti. Senta, governatore Zaia, ma adesso lei vuole ancora la secessione del Veneto oppure no? Noi abbiamo due referendum, le rispondo formalmente perché la forma sì. È anche sostanza in Veneto, approvati dal Consiglio regionale, uno per l'autonomia e uno per l'indipendenza. Non deliberano nulla, ma comunque sono un grande esercizio di democrazia, cioè dar modo ai veneti di esprimersi e dare un'indicazione. L'indicazione se autonomia oppure indipendenza. Quando ci saranno? Per il momento non ci saranno, visto e considerato che il governo Renzi, nonostante i grandi annunci in campagna elettorale qui in Veneto, ha deciso di impugnare entrambi i referendum. E quindi anche rispetto all'autonomia il governo sta dicendo di no. Senta, alle europee molti di destra avevano votato per Renzi che aveva preso il 37%. Si era un po' spaventato lei? Assolutamente no, perché i veneti li conosco, l'ho sempre detto anche a coloro che magari mi stanno a fianco ma erano preoccupati. Io i veneti quando do la mano li guardo negli occhi e sanno benissimo cosa penso, cosa faccio e come sono. Senta, oggi però sono tutti per lei, anche voti di sinistra, l'ha detto anche lei ed è vero, i flussi lo confermano. Il PD soprattutto ha sbagliato prima di tutto il candidato? A mio avviso no, ha candidato la persona più indicata per questa corsa, poi non entro nelle dinamiche del partito, me ne guardo bene da far commenti. No, d'accordo, però una sensazione profonda avendola avuta come rivale durante la campagna elettorale. È stata una candidata che non si è risparmiata, ha affrontato la campagna fino all'ultimo istante, è stata sempre sul pezzo, secondo me la miglior candidata che potevano avere. Molto probabilmente le riflessioni sono rispetto all'aiuto che possa aver avuto o meno dal suo partito. Senta, un nostro ascoltatore che sta sentendo l'intervista ci dice: credo che Zai avrebbe vinto anche se si fosse candidato per la Spingi e Spera. Ha capito? C'ha dei fan dappertutto. Ma allora, guardi, io ringrazio per queste attestazioni, però è altrettanto vero che insomma, è Daniele Di Lecco che lo scrive, perché voglio essere preciso. Però mi permetto di dire solo una cosa: è pur vero che la storia ha dedicato a me 5 anni che non sono stati 5 anni facili. È iniziato un'alluvione, la disoccupazione, il terremoto, le difficoltà, la crisi economica. La crisi economica, quindi penso che i Veneti abbiano apprezzato il fatto di aver tenuto la barra dritta, certo, con un mare molto grosso. Senta, ma l'ha sentita la Moretti dopo le elezioni? Sì, mi ha chiamato direttamente la notte dello spoglio elettorale per complimentarsi e quindi per riconoscere fino in fondo la sconfitta. E che opposizione si aspetta da lei? Io mi aspetto un'opposizione, ma me lo auguro, che sia un'opposizione dura, che sia un'opposizione che non fa sconti, perché come dico io, che ho sempre amministrato, quando hai un'opposizione fiacca la maggioranza si disgrega. Senta, ma Tosi ha perso, che cosa non ha capito? Guardi, io non mi occupo, non sono lo spin doctor di Tosi. Vabbè, però è uno che riflette lei. Per noi è una partita chiusa, è una pagina della storia della Liga Veneta che è chiusa, e abbiamo dimostrato fino in fondo che il partito esiste. Se qualcuno aveva accarezzato l'idea di poter dimostrare che il partito si sarebbe liquefatto con queste elezioni, purtroppo si è sbagliato. Giovanni da Pompei ci scrive: dite a Zaia che se si candida in campagna lo votiamo. Guardi, io ci credo, anche perché da ministro posso solo ricordare che ho difeso il pomodoro San Mazzano IGP, e se c'è oggi la protezione europea, il marchio europeo per la pizza napoletana, si può ringraziare quel ministro di allora che si chiamava Zaia, che ha fatto ottenere agli napoletani il marchio di tutela europea. Dopo parleremo della sua esperienza di ministro. Senta, ma Tosi, lei lo vorrebbe recuperare? Guardi, è un capitolo chiuso, e allora sotto il profilo umano il rapporto resta, sotto il profilo politico le strade si sono divise. Non l'ha sentito? No. Niente? No, assolutamente, ma neanche gli altri miei avversari o competitor, le definisca come vuole, ho sentito solo Alessandro Moretti. Senta, governatore Zaia, gli imprenditori in Veneto però allo Stato non chiedono appalti, ma chiedono una buona organizzazione, una buona amministrazione. Lei pensa che questo, un po' quello che diceva, è questo che l'ha fatta vincere? Beh, io sono convinto che hanno ragione. Noi odiamo l'ufficio complicazioni affari semplici, sì. E quotidianamente si alza qualcuno, si sveglia qualcuno ogni mattina che si inventa un casino, una norma, è sicuramente una complicazione per la vita dei cittadini. La Lega in Veneto è sempre stata meno barricadera, più moderata di quella lombarda, forse anche un fatto di carattere. Possono convivere senza confliggere, secondo lei? Decisamente sì, come le dicevo prima con Salvini Zaia, il fatto che ci completiamo è fondamentale. Una Lega identitaria in Veneto, magari una Lega che qualcuno definisce per alcuni aspetti più barricadera in Lombardia, ma alla fine il progetto politico viene sostenuto da queste due colonne. Senta, però lei è inclusivo e non esclusivo e vuole collaborare anche con i 5 Stelle, su questo punto la differenza con Salvini però c'è. I 5 Stelle possono essere un grande elemento di pungolo in Consiglio regionale, avendo fatto 5 anni di esperienza e sapendo che noi dobbiamo fare le riforme radicali, ben venga che ci sia qualcuno che all'opposizione comunque spinge. Poi è altrettanto vero che loro sono l'opposizione e noi abbiamo l'obbligo di dare risposte perché siamo la maggioranza. Senta Zaia, però lei è d'accordo con le ruspe che Salvini vorrebbe usare per spianare i campi rom, o è stata una battuta infelice? No, guardi, io penso che Salvini abbia utilizzato questa battuta per fare un'estrema sintesi del concetto. Noi siamo, la ruspa è qualcosa che combatte l'illegalità. Poi io sono amministratore e ho l'obbligo di fare una sintesi amministrativa. L'amministratore decide che i campi rom non debbono esistere nel momento in cui tu non sei più nomade ma diventi stanziale, e quindi se vuoi la residenza su una baracca e ti vuoi allacciare all'energia elettrica e all'acqua e non vuoi pagare le bollette, sei uno che vive nell'illegalità. E quindi la userebbe anche lei la ruspa in quel caso? Ma guardi, il tema della cioè questa è più un'immagine, perché poi la ruspa può essere anche un provvedimento amministrativo che ti dice te ne devi andare da lì. Vabbè, quindi dice sì, se serve la usa anche lei. Guardi, io non sono uno che si occupa di cantieri, quindi non manovro. Vabbè, non però manovro gestisce. Mezzi d'opera. Se questa deve essere una suggestione, diciamo che comunque la ruspa può essere anche un provvedimento amministrativo. Senta, ma per essere il leader federatore del centrodestra, come volesse, Salvini secondo lei deve cambiare un po' toni e temi oppure no, pur avendo stravinto? Guardi, Salvini vince, guardi, io poi non faccio l'avvocato difensore di Salvini. Io penso che oggi la politica più che di destra e di sinistra sia la politica delle leadership. Del resto abbiamo un Presidente del Consiglio che parla ai moderati al centrodestra da segretario di un partito di sinistra. Oggi l'altro leader che abbiamo sul territorio e sulla scena politica è sicuramente Salvini, che ha una leadership, ha il consenso e riempie le piazze. Senta, il Salvini di oggi così com'è, quindi secondo lei può unire il centrodestra, essere lui il federatore? No, perché con la nuova legge elettorale e poi alla fine per vincere bisogna federarsi, bisogna essere uniti. Ma io penso che abbia le carte in regola per farlo e noi lo sosterremo su questa avventura, visto e considerato, guardi, io l'ho visto all'opera e penso che Matteo saprà anche modulare la sua comunicazione in funzione di un progetto politico da condividere con gli altri. Quindi diventare inclusivo e non divisivo, diciamo. Beh sì, sai, l'inclusione quando tu dici no ai profughi e l'argomento... Dicevo inclusivo rispetto al progetto del centrodestra che è indispensabile per vincere. No, avevo capito. Quando dici ad esempio no ai profughi e lo dici dimostrando il motivo per cui dici di no, sei già inclusivo perché spiega agli altri che non è un atto di razzismo e quindi vuoi essere fondamentalista, ma è un atto appunto che si può documentare, quindi diventi inclusivo anche per chi è moderato che magari prima non aveva capito. Ma non potrebbe essere lei il leader giusto che mette tutti insieme? No, guardi, non ho questi progetti, non ho queste velleità. E penso sia coerente da parte mia governare il Veneto. Del resto ho lasciato un ministero per governare il Veneto. Ma il leader sarà scelto con le primarie a questo punto? Allora, le modalità non gliele so dire, però penso che se, per quel che ci riguarda, noi non abbiamo nessun problema a confrontarci con gli eventuali compagni di viaggio. Dovremmo capire quanti saranno questi compagni di viaggio. Senta, mi dica una cosa, cosa le piace di più di Salvini? Guardi, io l'ho conosciuto da segretario, le posso dire che ha le caratteristiche del leader perché sa lasciare liberi i suoi uomini, non fa ingressi a gamba tesa e capisce che lui deve essere semplicemente il direttore d'orchestra, poi ognuno fa la sua esecuzione. Invece ci sono dei direttori d'orchestra che vorrebbero anche suonare tutti gli strumenti a giro e quelli fanno solo disastri. E di meno che cos'è che invece non la convince di Salvini? Ma alcuni colori di maglietta, alcuni gli stanno bene, altre meno. Ammazza, tutto lì? No, ma è una battuta. Senta. No, non è che sono prudente. Onestamente la storia ci ha dato la possibilità di avere un segretario che sta veramente traghettando non solo la Lega, ma comunque un popolo. Chi la pensa come noi veramente va su una direzione giusta. Senta, Luigi ci scrive che bella energia, ma perché la vuole utilizzare per indipendenza e robe varie e non per l'Italia intera? Più o meno quello che stavo chiedendo. Noi abbiamo capito ad esempio che la levatura nazionale che ha voluto dare Matteo Salvini è anche per noi un investimento. La Lega Nord resta un partito, il partito che difende gli interessi del Nord. È altrettanto vero che se in Sicilia continuano ad avere 22.000 forestali e il Veneto ne ha 400, a questo punto è un investimento anche a risolvere i problemi della Sicilia, perché non finiremo noi di pagare il conto. Senta, Berlusconi dopo la vittoria di Totti in Liguria è solo il passato o anche un protagonista del futuro del centrodestra? Ma guardi, Totti ha fatto una bella vittoria e sicuramente l'ha riconosciuto direttamente Giovanni Totti con un apporto importantissimo da parte della Lega. Dopodiché le dinamiche in politica, come lei insegna direttore, sono dinamiche in continuo movimento, per cui si tratterà di capire da qui al futuro cosa accadrà per noi e anche per Berlusconi. Senta, ma nel sud, un po' lo stiamo dicendo, nell'alleanza precedente tra la Lega, Forza Italia e AN, il sud era appaltato ad AN. Ecco, oggi nel nuovo centrodestra come può radicarsi nel sud? Cioè, guardi, chi può essere il federatore del sud, per essere chiaro? Insomma, chi un leader del centrodestra a sud, lo vede? Ma, no, guardi, noi in questo momento ci siamo investiti di questa responsabilità pur avendo un'azienda che si chiama Lega Nord, che è un altro oggetto sociale, semplicemente perché si capisce chiaramente che il sud è molto più avanti forse del nord rispetto all'idea, cioè nel senso che il sud vive ancora con più modernità l'idea del fatto che non ci sia più destra o sinistra, ma ci sia un progetto politico. Di necessità ne fa anche virtù. Ecco, ma questa Lega, Zaia, questa Lega per conquistare il sud, essere leader del nuovo centrodestra, ha bisogno di un leader là. Se no, un leader là c'è, che è Salvini, che riempie le piazze, che comunque dà ancora la possibilità di sperare. Leader del sud, dice. Matteo Salvini ha una levatura nazionale e il fatto che sia l'unico che riempie le piazze al sud ne dà già una dimostrazione. Quindi lei ovvio dice anche... No, prego, scusi. No, scusi lei, in un progetto politico nazionale e quindi in un'alternativa a Renzi, Matteo Salvini ci sta a rappresentare tutto ovviamente nord e sud. Senta, quindi autonomia quasi in Veneto e conquista del sud, secondo lei stanno insieme nella figura di Salvini? Guardi, la Costituzione repubblicana si è scritta nel 1948, esattamente contemporaneamente a quella tedesca. In Germania abbiamo uno Stato federale che è assolutamente coeso, in Italia abbiamo la disgregazione. Si dice che il federalismo sia centripeto e il centralismo sia centrifugo. Si tratta semplicemente di mettere assieme questi concetti. Senta, governatore Zaia, Salvini è fortemente anti-euro, anche lei è per l'uscita dell'Italia dall'euro, no? Io penso che Salvini ponga una questione giusta quando dice fuori dall'euro, ed è una questione che oggi resta irrisolta. E basti pensare che se noi avessimo, ad esempio, eurozone diverse in Europa, avremmo possibilità diverse. Quindi lei è per un euro del sud Europa, diciamo, in un certo senso? No, io dico che oggi la proposta di uscire dall'euro è attuale, visto e considerato che non si è riconosciuta ad esempio la diversità nell'eurozona. Il mio Veneto sta tranquillamente con il rating con la Baviera, ma la Calabria non ci può stare, e quindi l'effetto paese ci trascina. E quindi finché se non ci sono eurozone diverse, bisogna uscire dall'euro. Appunto, un euro del Mediterraneo, insomma. Lei è stato ministro dell'agricoltura del governo Berlusconi, dicevamo prima, l'agricoltura è il suo destino, il destino dell'agricoltura, si giocano in gran parte a Bruxelles. Ecco, che cosa ha imparato da quell'esperienza? Ma che l'ufficio complicazioni a fare semplici, che Bruxelles è in mano ai burocrati, e penso lo abbia dimostrato il governo Renzi con il semestre europeo a presidenza italiana, dove non si è combinato assolutamente nulla. Penso che abbiamo l'Europa divisa in due parti, una parte del nord che vive di agricoltura ma non è un'agricoltura vera, una parte mediterranea che vive di agricoltura identitaria, di agricoltura di qualità, che però è penalizzata a Bruxelles. È penalizzata a Bruxelles perché quando si sono spartite le postazioni, le cariche, nel momento in cui si è fondata l'Europa, è accaduto che gli italiani volevano più posti, magari si sono fatti dare delle posizioni non apicali, ma certo, posizioni di minor rilievo. È più difficile fare il ministro o il governatore? Ma il governatore, guardi, le rispondo come rispondo sempre ai cittadini quando me lo chiedono. Il ministro è il primario di un grande reparto dell'ospedale, il governatore è il primario del pronto soccorso, per cui arriva di tutto. Senta, per finire, Mario Secchi, che è qui con noi insieme a Pietrangelo Buttafuoco, le faranno delle domande. Ha scritto Mario Secchi: dove ci sono i soldi il PD perde, cioè Liguria, Lombardia e Veneto. È una sintesi brutale ma efficace, d'accordo? A me piace questa sintesi, ma i soldi non come un aspetto così semplicemente dell'essere attaccati ai soldi, ma perché no. Soldi vuol dire partite IVA, vuol dire 600.000 partite IVA. Noi sappiamo che non possiamo avere un total rate tax, una tassazione totale del 68,5%, perché siamo finiti e siamo coloro che mantengono l'Italia, perché il residuo fiscale viene dalle nostre regioni. Mario, c'è una domanda per Zaia? Sì, riguarda le regioni. Buongiorno Zaia. Riguarda le regioni che adesso non governate al nord, ma che in prospettiva, se questo è il trend, diciamo, del settentrione, potreste riprendere. Mi riferisco al Friuli, mi riferisco ovviamente al Piemonte, dove ci fu una vicenda molto complicata. Avete in mente una strategia per il settentrione, oltre che quella per il centro e per il sud, che si è vista, diciamo? Cioè un rilancio lì? Faccio anch'io sintesi, come ha fatto lei prima. Io direi pancia a terra. Questa è la sintesi, bisogna lavorare, dimostrare ai cittadini di essere sul pezzo e risolvere i problemi. I cittadini non ci chiedono nulla, non vogliono parolai, gente che passa le giornate a fare previsioni ma poi non amministra. I cittadini vogliono la buona amministrazione. Pietrangelo? Buongiorno. Buttafuoco. Buongiorno. Ha maggior ragione perché non ne ha bisogno, ha maggior ragione perché ha stravinto e non semplicemente vinto. Allora, prima l'ho sentita a proposito di Flavio Tosi, quella è una ferita anche stupida, diciamo, rispetto a quello che è il sentimento diffuso dell'opinione pubblica che l'ha votata. Non sarebbe il caso adesso di un grande gesto e quindi tendere la mano politicamente, recuperare quel 12% che ha votato Tosi, perché appunto bisogna includere e non escludere, perché il progetto va oltre il Veneto, adesso c'è da costruire un progetto politico nazionale e non ha senso lasciare Tosi nelle mani di un Passera o di un Alfano. Guardi, innanzitutto l'ho già detto, la vicenda è una vicenda che per noi è chiusa. Due, Flavio Tosi con la lista civica Tosi prende il 5,7%, il resto sono altri partiti. E tre, i cittadini da me hanno sempre apprezzato la coerenza, sì quando è sì e no quando è no. Penso che dopo una campagna come questa, dove un ex segretario ha dichiarato in più occasioni che non si è fatto nulla per 5 anni in regione, penso che non ci siano i presupposti per pensare che ci possano essere. Ma quella è campagna elettorale. Ma guardi, la campagna elettorale è una roba seria, qualcuno invece la interpreta poco seriamente. Il giorno dopo comunque tu devi essere coerente e quando un Veneto su due ti vota ti dice anche qual è la direzione. Grazie Presidente. Grazie 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Che emozione, eh? Eh sì, perché oggi in metropolitana, Giovanni, andavano tutti di corsa, tutti veloci pendolari, si mettevano fretta per poi fermarsi e restarsene imbambolati, tutti immersi nell'apnea della malinconia, perché una cosa è la naturale dolcezza dell'autunno, perfino la pungente nostalgia dell'inverno tra i ceppi messi a bruciare, invece altra cosa, e ben altra cosa, è la malinconia in estate. Di solito s'attende il tramonto per consegnarsi mani e piedi allo struggimento. Invece stamattina, alla fermata Barberini, mi sono reso conto di cosa stesse accadendo nel volto di un uomo che era attrezzato di ogni benda per ogni ferita e non riusciva a dimenticare, e chiamava ogni nuovo giorno col nome dei giorni di sempre e svelava dettagli, i dettagli cantati qui da Ornella Vanoni, i dettagli dell'impossibilità del dimenticare. Non credo che ti voglia così tanto bene, errori di grammatica lei non ne fa, che senza errore non sia mai. Quanto è vero, mamma mia, questi dettagli ci riportano alla verità, alla realtà e alle tue bolle, caro Mario. Che cosa bolle nella tua pentola? Un sacco di denaro. No, questo è Mediterraneo, no? Era un bel film, mi piaceva, non lo so, anche la musica era bella. bella, perché poi ci sono opere, no, che restano, per fortuna. E che succede? Succede che siamo all'ennesimo tentativo di evitare il crack della Grecia, che poi parliamoci chiaro, il crack c'è già, non è che la Grecia forse non ce la fa, la Grecia non ce la fa. La questione in realtà pare non interessare troppo il nostro Parlamento, il governo. Devo dire che se cercate dichiarazioni le trovate, fate prima a cercare una pepita nel Klondike, datemi retta. Eppure ci sono in ballo circa 40 miliardi di esposizione, con tutto quello che ne consegue ovviamente, e poi c'è un tema che io continuo a ritenere incredibile, nessuno ha detto nulla, è pazzesco, e cioè il fatto che si sia tenuto un vertice a Berlino con Angela Merkel, Juncker, Draghi, Lagarde, sì, e Hollande, e noi non ce l'avamo. Cioè, chi ha rappresentato i nostri... È abbastanza incredibile. È curioso. Nessuno ne ha parlato. Niente, è come se la cosa fosse così. Irrilevante. Per me invece è molto rilevante. A chi abbiamo delegato il nostro dossier sulla Grecia? A Draghi. Ma Draghi abbiamo di credito alla Grecia? 40 miliardi. Sono oltre 40. Però ne tratta qualche altro. Penso, no? Abbiamo oltre il 12% del capitale della BCE, ovviamente sottoscritto attraverso Banca Italia, e neanche questo basta a farci invitare. Evidentemente fanno gli affari loro coi soldi nostri. Beati. Salamino. Matteo Renzi, come Tartarino di Tarascogna, come un Rodomonte al più, come Gano di Maganza o di Magonza, che dir si voglia, cerca in campo un qualunque nemico e si scatena. In questa campagna elettorale si è scatenato innanzitutto contro gli oppositori interni al suo partito, la ditta del PD. Quindi contro i sindacati, poi contro i burocrati, contro la RAI, contro le banche, contro tutto il mondo della scuola, contro la piccola e media impresa cui ha tolto il mercato grande delle Russie, giusto per fare un esempio, contro i pensionati, contro i dipendenti pubblici, e a difesa dei confini nazionali e degli interessi strategici, non dimentichiamolo, ha messo Federica Mogherini, è in Europa, quindi stiamo tutti tranquilli. Il taglio delle tasse non c'è stato, e coi 5 Stelle in crescita dovrà tornare al patto del Nazareno. Ha comunque attenuato lo splendore della vetrina abbagliante, per dirla con Aldo Cazzullo oggi sul Corriere: per conquistare i moderati non gli basta andare da Del Debbio o da Barbara D'Urso, e non basta infatti, una soluzione c'è, Mario. Quale? Torna da Maria De Filippi. Non avrà più il giubbetto di Fonzi, ma c'è Saviano, vorrei sottolineare, e tutte e due insieme indosseranno la mimetica. La mimetica a come metà. Ha fatto Hayrat in Afghanistan con jeans, Hogan, camicia bianca, insomma, il perfetto Piritollo. E perfino peggio è stata la fotografia durante l'attesa dello spoglio in combattimento con Orfini alla PlayStation. Lui non è Piritollo, e di più, a un certo punto gli chiederanno di fare Tarzan. Com'è che era la battuta? Facce Tarza. No, Renzi questo fa. Beh, finalmente eravamo tristissimi, è tornata Sara Tardelli con la sua quota. Vai Sara. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world. Il potere oggi è ancora l'oggetto del desiderio numero uno? Oppure i soldi sono diventati la vera ambizione? Mi viene in mente questa domanda se penso al caso di Joseph Blatter, l'uomo più potente dello sport al mondo, che è scivolato su una buccia di banana, una mail con il suo braccio destro che può trascinarlo nell'occhio del ciclone dell'inchiesta dell'FBI sulla corruzione dentro la FIFA. I soldi sembrano muovere, ormai forse dovremmo arrenderci, le scelte del calcio mondiale, non la passione per questo sport, che di soldi ne fa tanti anche senza bisogno della corruzione. Adesso la palla, anzi il pallone, passa a chi lo sapeva gestire bene, Michel Platini, e gli tocca di decidere se vuole tornare ad essere Leroy. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps, pour toi cette chanson, si garçon, garçon. Speriamo, intanto noi aspettiamo la finale di Champions e vedremo. Minoli sta già facendo capita. I giri di campo. Mi sto preparando. Vai Pietrangelo col canzoniere. Apriva l'armadio a specchi e restava per ore intere ad ammirare la bellezza e l'eleganza di tutto ciò che vedeva. La sua amica, appoggiata a lui, lo guardava ed egli guardava quei gioielli, quelle deliziose inezie che sono i doni dello sposo alla vigilia delle nozze, i terribili strumenti dell'artiglieria femminile. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, telefonate, indovinate, vuoi dargli un aiutino? È un aiutino, ci sono due colori. Due colori, beh, questo è facile, eh. È facile, facile, facile, forse indovinerei anch'io. Intanto noi andiamo in pubblicità. Mix 24. Allora, qui sono i Simple Minds, Alive and Kicking, un bellissimo pezzo di molti anni fa, e in fondo siamo tutti vivi e pronti a combattere, no? E l'ho messo perché pensavo a Mario Draghi, che è questa figura di banchiere centrale, che in qualche maniera, insomma, lo dobbiamo a lui. Politica, sì, sì, lo dobbiamo a lui, la ripresa che c'è in Italia quantomeno. E oggi si riunisce il board della Banca Centrale, parleranno di politica monetaria, quindi bisogna stabilire se continuare con questa massa critica, il quantitative easing, cioè il programma di acquisto di titoli o meno. I tedeschi premevano qualche settimana fa per tagliare un po', perché pensavano che la ripresa fosse più robusta. In realtà non è proprio così. Però è anche vero che loro abitano in un altro pianeta. Pensa che la disoccupazione in Germania è scesa ai minimi dal 1991 e il tasso di disoccupazione è fermo al 6,4%. Quello dell'Italia, tanto per fare un paragone così tutti ci sintonizziamo, come suol dire, è 13%, quindi insomma, siamo al doppio. Salamino! Giovanni Toti che ha vinto le elezioni in Liguria. Giovanni Toti, consigliere di Silvio Berlusconi, ha vinto nella terra storicamente rossa e ha consegnato del berlusconismo più che una mimesi di ciò che fu Berlusconi, ha consegnato un capovolgimento. Vince, insomma, ma cancella ogni traccia del Biscione. Per esempio, Giovanni Toti, avete notato, ve ne sarete accorti, non ha il tacco 12, e si dirà va bene, è pur sempre un uomo, certo, però lui è tutto il contrario del berlusconiano doc. Tenta per esempio le cravatte col nodo grosso, no, ha provato anche a dimagrire, ma tutto quel mostrarsi al balcone di un centro benessere, appunto avvolto nell'accappatoio, ve lo ricordate? Per fortuna è risultato inutile. È di felice circonferenza. E poi ha l'espressione di quello che ha pagato, non ha il ghigno del venditore, somiglia, è vero, a Gas Gas, ve lo ricordate, è il topino amico di Cenerentola, mm-hmm, nella versione quella di Walt Disney. Quindi in simpatico. Questa, certo, è simpaticissimo. Lui in questa sua immagine non sarebbe credibile a far bunga bunga, come suol dirsi, lui è una pasta d'uomo, ma come tutti, però ha fatto come tutti ha fatto un errore. No. Sì, perché preso dall'entusiasmo, elettrizzato dall'alleanza coi leghisti, ha detto: io e Matteo Salvini siamo i nuovi Silvio e Umberto Bossi. Ecco, io vi posso svelare un retroscena. Alla lettura di questa dichiarazione, Francesca Pascale si è tolta gli occhiali da sole, ha tirato fuori le unghie e ha ordinato un calippo. Io calippo e tu ten grippo, se per caso dico no, spatte via, fai a cazzer, fino a che non te lo fa. Abbiamo un vincitore del nostro quiz, Giovanni da Carbonia, forse. Giovanni, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora... Allora, dovrebbe essere il rosso e il nero di Stendhal. Ah, giusto! Feltrinelli! Vai Carbonia! Carbonia, città di fondazione! Ma lei è professore? Come? Non ho capito. Lei che mestiere fa? Impiegato. Dove? Sanità. Ah. Sanità. Ci ascolta sul lavoro? Sì, ti ascolto con il telefonino, radio telefonino. Ah, sì, è bello. Fortuna, sono solo in ufficio e vi ascolto. Grazie. Bene. Grazie, grazie. Forza Varis. Allora, ancora una bolla. Le cose sono cambiate, canta Bob Dylan. Sì, perché insomma le elezioni sono finite. Ho letto su Repubblica, non so se avete notato, un'intervista a Raffaele Cantone, niente male, dove diceva sostanzialmente a Rosi Bindi: cara Rosi, hai sbagliato completamente la strategia sulle cose che hai detto e fatto su De Luca. È una cosa molto significativa che apre, certo, tutto un capitolo, uno scenario su quello che accadrà nel PD. Però insomma a me pare evidente che De Luca e Emiliano, che sono quelli che hanno salvato la baracca democratica, sì, parliamoci chiaro, candidati non renziani, e non saranno dei presidenti sul telecomando di Renzi. Questo mi pare di poterlo affermare senza dubbi. E questo quindi frenerà parecchio il suo progetto, come dire, di normalizzare, tra virgolette, o comunque di ridurre il dissenso, eccetera. E cosa c'entra con l'intervista di Cantone? E c'entra perché Cantone gli ha dato un assist, voglio dire, no? Questo è, questo era, te lo volevo questo, fare questo era, questo era evidente. L'altra cosa che secondo me frenerà e parecchio, quindi Cantone? E quindi Cantone lì si propone come sempre, anche no? Perché è molto... era stato precedentemente bacchettato dal premier perché aveva preso troppa visibilità, insomma, il premier queste cose non le apprezza. Alla fine c'è una squadretta lì dentro. L'altra cosa, riprendendo Zaia, che io voglio mettere in evidenza per chiudere, è questa: Renzi ha un problema gigantesco nel settentrione. Voi pensate che Lombardia, Liguria e Veneto insieme sono circa 500 miliardi di PIL, cioè un terzo di tutto il prodotto interno lordo italiano. Se tu non controlli quelle regioni là, hai voglia di dire che poi governi il paese. Cioè il PD di Renzi in questo ha gli stessi difetti del PD di Bersani e del PD prima e del PC e dei democratici. Vabbè, c'è Ignazio Marino a Roma, c'è Crocetta in Sicilia. Quindi, controllare le zone improduttive è molto importante, per cui ecco perché io dico: dove c'è ricchezza alla fine non c'è il PD. Che storia ci racconti oggi, Marina Milone? Su di lei è stato raccontato moltissimo, e una delle icone più famose di Hollywood è Marilyn Monroe, che oggi avrebbe 89 anni. E però raccontiamo uno dei periodi più sconosciuti della sua vita, quello a New York, dove Marilyn cerca una nuova identità lontana dalle luci di Hollywood. Grazie, bene Marilyn, dopo il giornale radio, ma per finire abbiamo il professor Simonelli. Buongiorno. Professor Simonelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, in tutto questo tempo che non ci siamo sentiti, ma questo canone dove se n'è andato? Ma guardi un po', senta un po' dove sta. Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando Allora, non so lì da voi a Roma, ma qui in Padania è scoppiata l'estate. Sì, anche qui non male. Allora, però la vera certificazione dell'arrivo dell'estate è data dal momento in cui in Rai compare quotidianamente teche teche te. Che sa bello. Perché? E lì compare anche il canone, perché va a sostituire quotidianamente Affari Tuoi. E io ritengo, nulla di personale col conduttore che mi è molto simpatico, ritengo che Affari Tuoi non sia un prodotto da canone, non sia un prodotto da servizio pubblico. Non stiamo a spiegare perché, magari. No, vabbè, vabbè. E invece te lo è in qualche modo. Cioè, perché si vede com'era quando il canone veniva investito in prodotti, autoprodotti. E anche perché recupera tutto un grande patrimonio, che è quello delle teche. C'è anche una nuova direzione alle teche, quindi un certo dinamismo nuovo. Anche la vecchia direzione peraltro era ottima, intendiamoci. Ma soprattutto, come lei sa e tante volte ho sentito che lei dice, insomma, le teche devono essere anche uno stimolo per l'invenzione di nuovi assolutamente prodotti. Lei fa sempre la metafora della 500, esatto. Ecco, le teche sono la 500 di una volta. Allora, quest'anno probabilmente, non l'abbiamo ancora visto all'opera, ma te sarà proprio un laboratorio, perché ci sarà un filo conduttore, un filo tematico, delle canzoni che la caratterizzeranno, insomma una riflessione sul passato che non è però solo un esercizio di nostalgia. E quindi l'estate comincia bene quando comincia te. E poi segnalo un'altra cosa, perché un ascoltatore giustamente mi ha fatto notare che io manco a volte di segnalare alcuni appuntamenti importanti. Ho mancato di segnalare la serata torinese. E qui insomma il dibattito sarebbe ampio, perché io non sono un grande sostenitore di quel tipo di divulgazione scientifica, ma questo non conta. Stiamo parlando del Museo Egizio, per chi non lo sapesse. Allora, volevo segnalare una cosa che invece comincia la prossima settimana. Dica, che siamo in chiusura. Si chiama Razzo Laser, un piccolo programma di seconda serata o terza su Rai 2, condotto da Rocco Tanica, che è una sorta di parodia delle interviste. Siccome in televisione ci sono molte interviste, ma poche sono belle, farne una parodia mi sembra un esercizio interessante. Va e bene. Anche una riflessione. Lo seguiremo e staremo a vedere. Grazie professore. Per chi si fosse perso un pezzo di questa puntata, può ascoltarlo in replica questa sera alle 23, come tutti i giorni, ma prima della pubblicità, senza fare sul serio di Malinka.